ore 9 e 11 minuti di lunedì 10 febbraio 2024. Note abbastanza fosche, quelle di Radio Classica, devo dire a volte anche il vituperato canale di musica classica del gruppo Class, che si può ascoltare in DAB, trasmette buona musica, un po' meno bella di quella di Radio 3 Classica, diciamo c'è un po' meno lavoro di curatela dietro, ma... Beh, inutile dire che io cerco di sottofondo in queste chiacchierate di di mettere musica come i quadri di un'esposizione di Mussorgsky, i cui diritti sono scaduti, come estremo scrupolo, ma ecco, proprio a proposito di diritti, vi devo dire che forse Pendo Deliri si inserisce nel solco di tutte quelle cose che sanno di non essere ascoltate più che da qualche decina di persone e che quindi non smuovono di una virgola il quadro, diciamo così, dell'uso competitivo di materiale protetto dal diritto d'autore. Su questo è molto interessante quello che sta succedendo in un sito di materiali d'avanguardia, soprattutto di arte contemporanea, ma non solo, estremamente completo, che si chiama ubu.com, che vi invito a vedere, che dietro questa interfaccia è estremamente scarna, propone una incredibile quantità di documentazione che si può anche scaricare, non solo vedere in streaming, leggere o ascoltare, che sarebbe tutta protetta da diritto d'autore, ma in modo del tutto esplicito i gestori di questo sito, che hanno poi nomi e cognomi, quindi non è che si stiano nascondendo dietro chissà quale operazione pirata, sostengono che il fatto stesso che non siano mai stati minimamente disturbati dall'establishment giuridico con denunce, intimazioni di cancellare il contenuto e così via, è la prova che tutto questo impianto relativo alla proprietà intellettuale scatta esclusivamente nel momento in cui sono lesi i diritti degli editori e non degli autori. E quindi loro vanno avanti. Avevano smesso in realtà di aggiornare questo archivio qualche mese fa, il sito comunque rimaneva online come archivio appunto, per ragioni di risorse, ma con un atto di resistenza dichiarato proprio il 1 febbraio scorso, con la precisa volontà di sottolineare la necessità di lavorare per la memoria, hanno ricominciato ad alimentarlo. E questo io lo trovo un piccolo gesto infinitamente più utile delle mille prese di posizione sulla degrado, sulla cosiddetta enshittification generale di tutto, della politica, della società, di cui sicuramente l'insediamento di Trump e le sue prime tre settimane di executive orders rappresentano, diciamo, la forma esplosivamente più visibile, il salto di scala del peggioramento della vita pubblica, dato che insomma gli Stati Uniti hanno rappresentato per noi da sempre un riferimento fondamentale di una società democratica. Ecco, quando vediamo che il nostro riferimento si squaglia al sole in questo modo, ci sentiamo persi, e ci sono infinite discussioni, trattazioni, articoli di fondo, intellettuali che si interrogano, rassegne stampa. Io ascolto spesso per esempio la rassegna prima pagina di Radio 3, dove tutti cercano di capire cosa sta succedendo e cosa si può fare per difendere la democrazia. Beh, io credo che prima ancora di organizzarsi dal punto di vista dell'azione militante, io credo che già un'azione militante sia cercare di far bene il proprio lavoro, cercare di far bene quello che si sta facendo, perché farlo bene significa normalmente farlo in modo compatibile con un ordine democratico, quindi anche sul lavoro, per intenderci, no, trattare i colleghi in un certo modo, a relazionarsi con gli altri in un certo modo. Credo che nel nostro piccolo possiamo fare veramente tanto, specialmente ora che siamo tutti in qualche modo collegati in rete. E nel loro piccolo, i gestori di ubu.com, che ripeto è una straordinaria risorsa, andatela a vedere, stanno facendo molto. Tra tutte le analisi che ho letto in questi giorni, forse quella più interessante è quella pubblicata stamattina da Repubblica a firma di Massimo Cacciari, che insomma è un filosofo, un intellettuale nel quale spesso non mi sono riconosciuto, anche nei modi, anche nel modo di abitare in qualche modo il teatrino mediatico troppo spesso, accettandone le regole, i vincoli e così via. Però questa volta mi sembra che abbia colto il punto. Pubblicherò anche un piccolo screenshot di questa intervista come riferimento bibliografico, come spesso faccio qui su Pendo dei Liri. Cacciari dice una cosa secondo me sacrosanta, è che invece di... sì, possiamo anche incaponirci e definire tutto quello che sta succedendo una svolta a destra, ma non è tanto questo il punto. Quello che sta succedendo soprattutto è che il potere politico ha trovato, diciamo così, dei personaggi disposti a mettere il loro consenso a disposizione dei monopoli finanziari, tecnici, produttivi. E quindi nel momento in cui una realtà finanziaria, tecnica, produttiva diventa monopolio di fatto, come accade con la tecnologia, con la rete, come è successo negli ultimi 10 anni, no? La rete si regge su dei monopoli capitalistici di fatto, è un attimo trovare dei referenti politici in grado di rappresentare i propri interessi. Questo che abbiamo chiamato per decenni lobbying adesso ha fatto un salto di scala con Trump, con la presenza dei principali CEO delle aziende della Silicon Valley alla sua inaugurazione. Ha fatto un salto di scala perché, come dire, le attività di lobbying sono qualcosa di abbastanza implicito storicamente, un po' ci si vergogna di farle, e invece stavolta diciamo che sono invitati al pranzo di gala e si fanno fotografare accanto al loro eroe. Qualcuno ha usato l'espressione baciare l'anello. Io non so esattamente chi stia baciando l'anello, cioè se siano loro a baciare l'anello di Trump o Trump che per tutta la campagna elettorale e anche adesso sta baciando l'anello dei vari Musk, Bezos, Zuckerberg, eccetera. Però questo è quello che sta succedendo. Io ho già fatto degli episodi che si intitolavano Non è fascismo, ma non è solo questione di dire cosa è fascismo e cosa non lo è. La questione delle etichette, secondo me, potrebbe anche passare un po' in secondo piano a questo punto. Dobbiamo capire che ciò che viene messo in discussione prima ancora dell'ordine democratico è la necessità di avere uno Stato che abbia un orizzonte politico comunitario, cioè che si ponga almeno formalmente come tensione ideale l'obiettivo di tutelare gli interessi di tutti. Persino quando lo Stato non era completamente democratico, quando non c'era il suffragio universale, le nostre costituzioni, anche lo Statuto Albertino per esempio, quindi ben prima del suffragio universale, era scritto con un orizzonte comunitario nel retrocranio di chi lo aveva vergato. Quindi certe monarchie costituzionali, per esempio, avevano un'ambizione superiore di quelle che oggi sono invece delle repubbliche. Ecco, il problema qui è proprio di conquistare, oltre alla democrazia, il nostro essere una res pubblica, perché in questo momento non lo siamo. E per chiudere una mia riflessione, visto che sono immerso ancora negli studi degli anni 60-70, soprattutto di questo... grazie a questo bellissimo volume di Rico De Aglio che si intitola appunto Anni 70, mi sembra sempre più chiaro che quei movimenti avevano al loro interno, diciamo, una minoranza visibile che veniva raccontata in quanto attigua quantomeno alla lotta armata, una maggioranza di persone che vi aderivano come semplice fenomeno di costume, quindi c'era anche un discorso poco politico all'interno di quei movimenti, e poi c'erano alcune persone che semplicemente, non so se fossero una minoranza, probabilmente lo erano, che semplicemente volevano evitare di arrivare dove siamo arrivati adesso, alla sparizione della cosa pubblica. Lo abbiamo visto nei movimenti del 68, in certe forme, in altre forme nei movimenti del 77 e forse mai con altrettanta chiarezza con i movimenti no global del 2001. Perché? Perché era a un certo punto diventata visibile, era diventato visibile il primo livello del problema, e cioè la globalizzazione delle istanze capitaliste, che anticipava i monopoli di oggi, monopoli tecnici e finanziari di cui parla Cacciari. Ecco, tutti questi personaggi che oggi vengono quasi sbeffeggiati nel discorso politico, semplicemente alzavano la bandierina, poi se fosse rossa la bandierina, ok, ma questa bandierina diceva che saremmo andati esattamente dove siamo arrivati oggi, dove siamo arrivati con gli executive order, con il Dipartimento per l'efficienza governativa di Musk, che licenzia il 97% dei dipendenti di USAID. Poi vabbè, ogni tanto salta fuori una corte, c'è cioè un altro pezzo di Stato prima che un altro pezzo di democrazia ad annullare l'ordine esecutivo perché è legittimo. Mi sembra abbastanza all'ordine del giorno lo scontro ancora una volta tra potere esecutivo e potere giudiziario, perché appunto il potere giudiziario non trova più di fronte a sé un interlocutore rispettoso della separazione dei poteri. Quindi ancora una volta il problema non è tornare, il rischio di tornare a un ordine pre-democratico, il rischio è quello di tornare a prima di Locke, a prima di Montesquieu, a prima dello Stato moderno, e ognuno di noi forse può fare qualcosa per evitarlo.